Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito www.radio24.it. Di che cosa parleremo oggi? Il primo argomento è l'argomento che in apertura adesso su tutti i siti dei principali quotidiani italiani, ed è la vicenda della Banca Popolare di Vicenza. Che cosa è successo? La borsa italiana ha deciso di non approvare la quotazione in borsa della Popolare di Vicenza. Non sussistono i presupposti, questo si legge nel comunicato, per garantire il regolare funzionamento del mercato. Con il fallimento della quotazione della Popolare di Vicenza, il Fondo Atlante sottoscriverà integralmente l'aumento di capitale da 1,5 miliardi, arrivando al 99,33% della banca. Questa notizia ha avuto un impatto, se vogliamo, anche psicologico, ma non solo psicologico, su tutto il settore bancario in borsa. Banco Popolare giù del 6,8%, Monte dei Paschi del 5,7%, Popolare Milano del 5,5%, UbiBanca del 5,08%, Unicredit del 3,91%, Popolare Emilia Romagna del 3,35%, Mediobanca del 2,86%, Intesa San Paolo giù di 1,5%. Risultato, il FTSE MIB perde lo 0,86% a fronte di Parigi che guadagna lo 0,43% e Francoforte che guadagna l'1,06%. Londra nella giornata di oggi è chiusa, è Bank Holiday, e visto che ci siamo vi diamo anche i titoli che vanno bene: Luxottica più 3,72, Moncler più 3,18, Fiat Chrysler più 2,37, Exor più 2,20. Abbiamo citato il titolo Fiat Chrysler, appunto, più 2,37%, abbiamo citato Exor. Questo sarà un altro dei temi che affronteremo nell'arco di questa trasmissione. Parleremo proprio di Fiat. Intorno alle 18 arriveranno come sempre i dati sulle immatricolazioni, ma non è solamente questo il tema. Oggi, come già vi raccontava in parte GR24, c'è stato il bilancio della Ferrari, c'è stato Marchionne che è diventato amministratore delegato, ma soprattutto veniamo da un fine settimana nel quale si sono fatte più consistenti le voci secondo le quali Fiat Chrysler avrebbe pronto un accordo con Google per l'auto che si guida da sola, la famosa Google Car. Presumibilmente non sarà Fiat Chrysler l'unico player del settore automobilistico che sta tentando un accordo con Google o con altri colossi della Silicon Valley. Di certo è un elemento interessante e che ha messo Fiat nella giornata di oggi sotto i riflettori. Dopo le 18 ci occuperemo di questo. Ci occuperemo anche di ricerca. Oggi il governo ha varato il piano nazionale, c'è un incremento di risorse del 25% rispetto al precedente. Si tratta di 2,5 miliardi di euro che arrivano, sono stati stanziati ieri dal CIPE e oggi sui quali oggi ha dato dei dettagli il ministro dell'istruzione, università e ricerca Stefania Giannini, indicando poi quali sono le direttrici: l'aerospazio, l'agri-food, la cosiddetta industria 4.0. fatto sta, appunto, ci sono in gioco 2,5 miliardi per la ricerca. E se non è una svolta, certamente è un piccolo passo nel recupero di una distanza che ci separa dalla media europea, che è veramente enorme. Abbiamo una media europea che è intorno al 3% del prodotto interno lordo destinato alla ricerca e allo sviluppo. In Italia siamo intorno a 1,5%, se non qualcosa di meno. Quindi un segnale positivo da prendere ovviamente senza trionfalismi in quest'ambito. Questi saranno i temi di oggi e certamente, come vi dicevo, parleremo anche di mercati, andremo nel dettaglio anche sui singoli titoli come sempre facciamo. I numeri sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. No, non è vero, Alessandro da Imola che ci scrive che quando c'è da parlare di sfighe Barisoni manda sempre avanti Spezia, perché insomma Sebastiano è costantemente qua e, come dire, abbiamo attraversato questi 5 anni che non siano stati proprio rose e fiori, per essere eufemistici. Come sempre partiamo dalle materie prime. Oro a $1,300 l'oncia, tocca i massimi da 15 mesi, anche in scia ai cali del dollaro, picco a $1,301,50 l'oncia. Il petrolio torna in calo oggi con il WTI, quello quotato a New York, con consegna a giugno giù dell'1,63% in questo momento a $45,17 al barile. Per quanto riguarda il Brent, il calo è del 2,13% e siamo con quello in consegna a luglio a $46,3 al barile. Di mercati europei abbiamo parlato, non vi ho dato i dati dall'America. Standard & Poor's 500 più 0,36%, Dow Jones più 0,4% in questo momento, con Tokyo che stamattina ha fatto segnare una chiusura in netto calo del 3,11%, a pesare sulla fiducia degli investitori dopo la giornata di vacanza di venerdì. Anche qua il calo del dollaro, il rafforzamento dello yen sul biglietto verde ai massimi da 18 mesi, dovuto alla decisione della Banca del Giappone lo scorso giovedì di non modificare la propria politica monetaria. Da dire che Tokyo sarà comunque chiusa domani, mercoledì e giovedì. La vicenda Bitcoin. L'imprenditore australiano Craig Wright si è svelato come il vero creatore di quella che è stata definita la valuta virtuale, nascosto dietro il misterioso nome di Satoshi Nakamoto, e lo ha fatto contemporaneamente alla BBC, all'Economist e a GQ, curiosamente. Secondo l'emittente britannica ha fornito anche una prova tecnica, mettendo fine ad anni di ipotesi e illazioni che erano sfociate nel 2014 in una smentita identificazione di uno pseudo Nakamoto in un quasi omonimo, Dorian Satoshi Nakamoto. Wright ha tracciato una firma digitale usando le chiavi crittografiche create anni fa a protezione di un primo blocco originario di Bitcoin, riconducibile appunto al creatore della valuta virtuale. Occhio che l'elemento Bitcoin è particolarmente importante. Se vi va, andate a cercare su internet, trovate molti approfondimenti su questo tema, non tanto per Bitcoin in sé, ma per la tecnologia che c'è dietro, che si chiama blockchain, e che per molti autorevolissimi giornali, compreso l'Economist che ci fece una copertina qualche tempo fa, potrebbe essere un elemento di svolta economico, la vera rivoluzione in Bitcoin. Quindi se Craig Wright è veramente l'inventore di Bitcoin, siamo di fronte a una sorta di genio. Dalla valuta virtuale a quella reale che manca a Puerto Rico, che va verso il default. Il governatore Alejandro Padilla ha annunciato che il paese non onorerà gli obblighi verso la Government Development Bank, alla quale dovrebbe pagare entro lunedì $422 milioni. Sempre a proposito di economia internazionale, e c'è il TTIP o TTIP, come lo volete chiamare, l'accordo che stanno cercando di fare l'Europa e gli Stati Uniti per un trattato di libero scambio e che alimenta molte proteste e molte polemiche nei giorni scorsi, 250.000 persone in piazza a Berlino contro il TTIP. La Süddeutsche Zeitung ha anticipato oggi alcune delle 240 pagine di 16 documenti segreti che Greenpeace ha reso pubblici. Dai documenti emerge che per spingere l'accordo sulle maggiori importazioni di prodotti agricoli e alimentari americani in Europa, Washington ha minacciato di bloccare le facilitazioni sulle esportazioni per l'industria automobilistica europea. Allo stesso tempo gli americani attaccano i principi di fondo di precauzione della tutela del consumatore europeo, scrive il quotidiano tedesco, che oggi proteggono 500 milioni di consumatori dall'ingegneria genetica negli alimenti e dalla carne trattata con ormoni. Sì. Ammesso che si possa parlare di necessità di protezione dall'ingegneria genetica, ma insomma, lasciamo il discorso a parte. Dice la commissaria europea Malmström che l'allarme le sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua, ci sono troppi malintesi, non è un testo consolidato, non c'è nessun accordo, solo proposte. Il governo Merkel dichiara di puntare sempre ad un rapido accordo con gli Stati Uniti, però diciamocela francamente, a questo punto sembra abbastanza difficile che possa arrivare un accordo in tempi rapidi. Obama è a fine mandato. E arrivare a conclusione con tutti questi nodi, compreso quella dell'etichettatura dei prodotti, del riconoscimento delle denominazioni geografiche e con tutte queste tensioni appunto che attraversano il rapporto tra Stati Uniti ed Europa su questo fronte, sarà ben difficile. A novembre si vota in America, poi per l'insediamento bisognerà aspettare ancora qualche mese e comunque ci vuole il voto del Congresso. Campacavallo. Parla il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, dice nell'Eurozona serve una politica espansiva di stabilizzazione macroeconomica che sostenga la domanda, partendo naturalmente dalla politica monetaria. E chissà se sta parlando ai tedeschi anche questa volta. Questo permetterà all'inflazione di tornare al nostro obiettivo e col tempo ai tassi di interesse di risalire ai loro livelli di lungo termine. I bassi tassi, aggiunge Draghi, riflettono un'insufficiente domanda per gli investimenti e si tratta di una sfida su scala globale. Di Popolare di Vicenza vi dicevamo, per riassumere per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, appunto c'è stato lo stop da Borsa Italiana che non ha approvato la quotazione in borsa della Popolare di Vicenza, questo ha avuto un impatto sui mercati e sui titoli bancari in particolare. Peggiore il Banco Popolare, meno 6-8%, ma ci arriveremo tra un attimo. C'è il tema del tetto ai titoli di Stato nella pancia delle banche. Il ministro Padoan dice che la questione di mettere questo tetto non è solo una questione europea ma globale, va discussa dal Comitato di Basilea. E poi Padoan ha parlato anche di flessibilità dicendo che crea incentivi per buone politiche. Il presidente del Consiglio Renzi, per conto suo, a proposito di flessibilità, oggi lo sapete, ve l'ha raccontato il GR, ha di fatto inaugurato la campagna per il sì al referendum costituzionale, direi con ampio anticipo, visto che siamo in realtà in piena campagna elettorale per le amministrative. E ha detto: in Europa ci dicevano adesso arrivano i ragazzini di Rignano, 27 miliardi di flessibilità, quelli che oggi ci fanno lezioni di flessibilità sono gli stessi che hanno firmato il Fiscal Compact anni fa. Sentiamo Renzi. Tutto quello che abbiamo fatto è enorme, eppure non si è fatto niente. E la sfida più grande inizia adesso. Perché abbiamo rimesso in moto il PIL, perché le tasse finalmente sono andate giù, perché il costo del lavoro finalmente è più basso, perché le persone stanno iniziando a trovare lavoro, perché in Europa ci dicevano adesso arrivano i ragazzini di Rignano, voglio vedere che riescono a fare in Europa. 27 miliardi di flessibilità in Europa ottenuta, e a quelli che fanno la bocca storta dire però 27 miliardi, segnalo che sono gli stessi che hanno firmato quell'assurdità che è il Fiscal Compact, con il quale avremo disintegrato il paese. Quelli che ci fanno lezioni, ma tu ne hai presi poche di flessibilità, sono gli stessi che 3 anni fa hanno firmato il Fiscal Compact. Presidente del Consiglio, ci arriveremo adesso, perché vedo molte domande che arrivano dai nostri ascoltatori via SMS, anche, per così dire, un po' indelicate. Il Fondo Atlante ce li ha i denari per salvare le chiappe anche a Veneto Banca, ci scrive un ascoltatore, o quest'ultima andrà in bail-in, poi cosa succede ai correntisti di Vicenza? Adesso ci arriviamo, intanto sentiamo Renzi che anche di banche ha parlato. Ci sono stati problemi? Sì, sulle banche. A me quando mi dicono che noi siamo della lobby delle banche, non potendo fare la lobby dei rignanesi, posso fare la lobby dei Boy Scout al massimo io come lobby. Anche sul tema delle banche, di che cosa stiamo parlando? Siamo intervenuti. Abbiamo eliminato il meccanismo atroce ed assurdo delle banche popolari, dove uno contava uno indipendentemente dalla presenza nella banca. Abbiamo dato garanzie al sistema della banca di credito, delle banche di credito cooperativo. Ah, ma c'è stato il problema del salvabanche. Noi abbiamo salvato i correntisti di quelle banche, che rischiavano di perdere non le obbligazioni subordinate secondarie, per le quali pure si è finalmente provveduto, grazie al buon rapporto con l'Unione Europea, a trovare una soluzione ulteriore. Ma per soluzioni del passato rischiavano di perdere il conto corrente. C'è la classe dirigente che non si è accorta che i problemi delle banche non sono problemi che originano in Toscana o in questa zona. Sono problemi che hanno visto interi territori e intere classi dirigenti reggersi l'un l'altro. Noi abbiamo messo finalmente, con l'ultimo decreto legge, la parola fine a questa lunga vicenda. E diciamo con forza, adesso portiamo le banche a dare credito alle piccole e medie imprese di questo territorio, ai piccoli artigiani. Qualcuno ci dice, ma che Renzi davvero ha abbassato le tasse? Non si è visto. Allora, prendiamo il dato generale. Il dato sulla pressione fiscale per il 2015 segnala un decremento, però, ragazzi, parliamo di numeri veramente marginali rispetto a quello che servirebbe a questo paese. E a quello che potreste vedere nella vostra busta paga, ammesso che ce l'abbiate, naturalmente. Oh, e di riforme ha parlato anche l'amministratore delegato di Fiat Chrysler, Marchionne. Bisogna andare avanti, non bisogna fermarsi, dice. Sentiamo. Il fatto che non basti, condivido. Il fatto che il governo dovrebbe fare di più, non lo so. Io so benissimo che questo sistema che è stato creato di riforme nel paese ha aiutato molto a cambiare anche la mentalità e come viene apprezzato il paese dall'estero, che è una cosa importante, perché il capitale non può venire soltanto dall'Italia. Quindi se vedete FCA, noi stiamo raccogliendo fondi da tutte le parti del mondo, lo facciamo anche per la base della credibilità del paese, su cui bisogna stare molto molto attenti. Lo possiamo giocarcela. Siamo a buon punto, quindi non vorrei che si fermasse. Veniamo ai fondi stanziati ieri dal CIPE, al varo del Programma Nazionale della Ricerca da 2,5 miliardi, 1 miliardo alla cultura. Franceschini dice fondi già disponibili per quanto riguarda la cultura. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche da RDS, Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il CIPE del 1° maggio ha sbloccato un lotto importante di finanziamenti. Si tratta di 2,5 miliardi destinati al Piano Nazionale per la Ricerca e sono fondi previsti e contabilizzati da qui al 2017 tra stanziamenti presenti nel bilancio del Ministero appunto della Ricerca, 1,9 miliardi, e 500 milioni che fanno parte della quota nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione Europeo, che sono rimasti in forse fino all'ultimo. Per la verità, il valore complessivo legato al Piano Nazionale della Ricerca potrà anche essere più elevato e potrebbe superare, tra risorse nazionali nazionali e comunitarie i 13,5 miliardi nel complesso. In ballo tra programmi operativi regionali e Horizon 2020 ci sono 9,4 miliardi da qui al 2020 per l'appunto, e per ottenerli tutti l'Italia dovrà assestarsi su un tasso di aggiudicazione dei progetti comunitari del 10%, un risultato però tutt'altro che scontato, considerando che l'ultimo aggiornamento, risalente a 30 ottobre del 2015, ci dava un tasso dal 7,8%, quindi su quasi 12 miliardi di finanziamenti, quelli coordinati da un team italiano hanno incassato poco meno di un miliardo, 940 milioni e 484 mila euro. Il piano per la ricerca si basa su 7 grandi pilastri: internazionalizzazione, capitale umano, programma nazionale delle infrastrutture, cooperazione pubblico-privato, ricerca industriale, efficacia e qualità della spesa, programma per il mezzogiorno. Si tratta di obiettivi a maglie larghe, come si vede, andranno declinati, si spera, in modo da rispettare due priorità: la valorizzazione del capitale umano dei nostri talenti e la crescita del prodotto interno lordo, in modo da creare sviluppo vero, moderno e sostenibile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Infine, a proposito di industria, un paio di notizie. Il gruppo ArcelorMittal è pronto con Marcegaglia a presentare un'offerta vincolante per l'Ilva alla scadenza di fine maggio. La condizione è che Cassa Depositi e Prestiti entri in una cordata a tre. Questo quanto riferisce l'ANSA. Dice i vertici del gruppo anglo-indiano hanno avuto un incontro con CDP per informarle, per chiarire che andranno avanti solo se la cassa li affiancherà. La quota restante, secondo il progetto, verrà poi divisa nella proporzione dell'85% per gli indiani e del 15% per Marcegaglia. È interessante anche quest'altra indiscrezione di una fonte vicina a Delfin, l'holding della famiglia Del Vecchio. Di fronte ad un piano industriale solido che abbia una concreta possibilità di successo, Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, sarebbe disponibile a partecipare finanziariamente al salvataggio dell'Ilva, con la volontà di aiutare il paese e la Puglia, regione alla quale è affettivamente legato. Infine vi ricordo che, insomma, fatecelo dire, oggi celebriamo i nostri 150 anni, 150 anni del nostro gruppo editoriale, del Sole 24 Ore. Da 150 anni informiamo le famiglie, i professionisti, il mondo dell'imprenditoria e della finanza, e lo facciamo anche in radio, come sentite, ma ovviamente da molto meno tempo. Abbiamo deciso di raccontare proprio in prima persona, il nostro quotidiano ha deciso di raccontare in prima persona il proprio modo di fare informazione, la nostra cifra valoriale, la nostra visione attraverso il documentario Lo ha detto il Sole, che verrà presentato questa sera, viene presentato in questi minuti alla Scala, al Teatro alla Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, evento che viene trasmesso in diretta streaming anche sul sito www.elsole24ore.com. E siamo al primo tema di giornata, che sono appunto le banche, la Popolare di Vicenza. Ed eccoci dunque. La notizia è che Borsa Italiana non ha approvato la quotazione in borsa della Popolare di Vicenza. Non sussistono i presupposti per garantire il regolare funzionamento del mercato. Quindi il Fondo Atlante diventerà padrone unico della Vicenza, con il 99,33% per essere precisi. Fabio Pavesi, del Sole 24 Ore. Ciao Fabio, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, che cosa rappresenta questo fatto? Perché il mercato ha reagito molto male. Abbiamo la chiusura adesso, meno 6,97% il Banco Popolare, meno 5,7% la Pop Milano, Monte dei Paschi meno 5,5%, Ubibanca meno 5,13%, Unicredit meno 4,03%. Che cosa rappresenta questo fatto? Beh, è andata nel peggiore dei modi, nel senso ci si aspettava che Atlante facesse la parte del leone, arrivando fino al 75%, ma un 25% era destinato ai soci. Ebbene, questi soci non si sono visti, nel senso che pochissimi hanno deciso di sottoscrivere le azioni, e quindi non c'è il flottante, l'azione non è scambiabile e quindi non si può quotare. come dire, è un po' un epilogo amaro di una vicenda dolorosa. Il fatto che adesso Atlante disponga alla banca vuol dire che probabilmente potrà metterci mano, perché il tema è la Vicenza che è stata salvata. Cioè, l'aspetto positivo che il mercato un po' dimentica è che pensate cosa sarebbe successo se non fosse intervenuto il fondo Atlante, che è un fondo di mutuo soccorso. I sottoscrittori sono le stesse banche sostanzialmente. Ci sarebbe stato il bail-in. Quindi correntisti bruciati, obbligazionisti subordinati bruciati, quei famosi 500-700 milioni di obbligazioni subordinate, sarebbero state tutte azzerate. Avremmo avuto un crack e avremmo avuto una ripercussione violentissima sul settore bancario. Quindi la nota positiva oggi sul mercato non la vede. Non la vede per mille ragioni che proveremo a spiegare. La nota negativa è che nessuno ha voluto sottoscrivere la Vicenza, proprio perché è vero che la Salvi adesso ha 4 miliardi di capitale, quindi il capitale è a posto, ma c'ha ancora 5 miliardi di crediti malati in pancia da smaltire. È una banca che ha il 21% dei suoi crediti sono malati tuttora, e quindi è una banca ancora convalescente, e il professor Penati, la sua questio, dovrà lavorare per rimetterla in carreggiata. Si è salvata, però avremmo avuto un bail-in che sarebbe stato sconcertante, quindi l'aspetto, come dire, che si è evitato è un disastro generalizzato. Posto ovviamente che io lo so già, perché abbiamo anche molti ascoltatori in Veneto, che qualcuno ci scriverà adesso tra gli azionisti e quelli che l'abbiamo già raccontato, che hanno sottoscritto, vanno a zero completamente, hanno sottoscritto le azioni a 63 euro e adesso se le trovano a zero. Adesso è ufficiale, adesso è a zero, perché sono stati diluiti completamente. Cioè, chi aveva le azioni, le quali azioni valgono zero, adesso ormai è ufficiale. Sono stati salvati chi? Gli obbligazionisti, i subordinati, credo anche una parte degli altri obbligazionisti, e ovviamente i correntisti, che sarebbero stati salvati sopra i 100.000 euro. Certo. Ma attenzione, senza Atlante la Vicenza domani era in crack. Questo va detto a chiare lettere, perché comunque abbiamo evitato, Atlante ha evitato. Atlante è un fondo mutualistico, attenzione. Allora, le stesse banche hanno salvato Vicenza. Allora Fabio, siamo un po' in ritardo sul meteo, quindi adesso c'è una breve pausa per il meteo. Poi voglio tornare da te per fare il punto su una serie di cose, a partire anche dalle domande che ci fanno gli ascoltatori, perché spesso l'abbiamo detto anche da questi microfoni, che probabilmente la dotazione del fondo Atlante non è un granché, quindi se deve intervenire anche per Veneto Banca e se deve intervenire anche solo per un'altra banca, sono già finiti i soldi, e la parte dell'alleggerimento delle sofferenze va a farsi friggere in un istante. Però pausa. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Allora, molte sollecitazioni via WhatsApp e via SMS dagli ascoltatori, no? All'ascoltatrice che ci scrive, o ascoltatore che ci scrive, ma cosa dice il suo ospite? Noi che abbiamo perso tutto, siamo carne da macello, vergogna. Non abbiamo detto questo, abbiamo detto semplicemente che non c'è niente da fare. Non è altro eccetto ovviamente provare a rivalersi eventualmente in sede giudiziaria, posto che la banca ha deciso e l'assemblea degli azionisti ha deciso di non fare l'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici. C'è un tema di vigilanza, ragione Ferruccio che ci scrive via SMS, lo sottolineiamo sempre questo, da parte della Banca Italia, da parte probabilmente anche della Consob, non solamente su questo ma anche sui casi precedenti, ne abbiamo parlato a lungo, insomma, la lentezza con la quale è intervenuta la Banca d'Italia su certe cose. Che una buona percentuale del capitale di Atlante sono sostanzialmente soldi pubblici, l'abbiamo detto, la Cassa Depositi e Prestiti, non sono proprio pubblici, o meglio sono insomma degli obbligazionisti delle Poste, per così dire. Qua vedo molte preoccupazioni dagli ascoltatori. Aumento di capitale del Banco Popolare, Veneto Banca e via dicendo, e questo Atlante che ha una dotazione, Fabio, estremamente contenuta. Sì, solo per rispondere ovviamente a chi oggi si lamenta fortemente, il Sole ha scritto il primo articolo sull'anomalia della Vicenza, che quotava 62 euro più di un anno e mezzo fa. dicendo che quella quotazione era irrealistica e dicendo che si sarebbe quotata sarebbe stato un disastro. Insomma, noi abbiamo tentato di fare il nostro lavoro. Rilevo che la vicenda drammatica, un nome e cognome, l'ex presidente Zonin e molti del vecchio vertice, rilevo che l'assemblea dei soci non ha votato per fare l'azione di responsabilità. E quindi, insomma, più che scagliarsi contro i giornali che in realtà di questa vicenda si sono occupati, porrei il problema di quella simbiosi perversa sul territorio, cioè questi soci purtroppo erano i soci che prendevano i mutui a tassi scontati e in cambio dovevano rilevare le azioni. È stato una sorta di incesto in quel territorio, cioè io ti finanziavo a un tasso scontato e ti obbligavo a comprare le mie azioni. Ecco, quella cosa lì è stata gravissima, non l'ha vista nessuno, le autorità sono svegliate molto tardi, su questo gli ascoltatori hanno perfettamente ragione. Adesso bisogna fare delle azioni di responsabilità, peccato che l'ultima assemblea ha votato contro, questo è un altro risvolto amaro. Veniamo invece a cosa succede alle banche. Sì, il tema è un po' quello, cioè se Vicenza è andata così, il mercato guarda Veneto Banca, che tra l'altro sono 50 km di distanza l'una dall'altra, stesso copione, gestione infausta, crediti malati non mai svalutati, crediti, prestiti facili dati ai vertici, quindi è lo stesso copione a 50 km di distanza. Anche Veneto Banca si trova di fronte a dover ricapitalizzare, se no fallisce. Per il momento Intesa dice: io garantisco l'aumento, cioè mentre Unicredito si è sfilata da Vicenza e subentrato il fondo Atlante, Intesa continua a dire: io ci sono, se ci servirà chiameremo Atlante. Atlante risponde: aspettiamo che siano loro a farsi vivi. Per cui la situazione è in stand by. È ovvio che l'andamento di questa sottoscrizione, in cui i soci non hanno di fatto aderito, rende il mercato preoccupato, perché deve passare lo scoglio di Veneto Banca, poi a giugno ci sarà l'aumento di capitale del Banco Popolare. E ovviamente in questa condizione ha ragione qualche ascoltatore a dire: il problema del fondo Atlante è che la dotazione è una dotazione bassa. Beh, del resto l'ha detto lo stesso Mario Draghi, ha definito Atlante un piccolo passo nella giusta direzione, appunto giusta direzione sì, ma piccolo passo, perché quelle risorse lì servono a garantire gli aumenti di capitale, quindi nessuna banca fallirà. Questo è l'unico risvolto positivo e certo, è che avendo Atlante la garanzia degli aumenti, nessuna banca italiana fallirà. Il tema vero è che poi Atlante dovrebbe fare un altro lavoro, è quello di togliere le sofferenze ai bilanci delle banche che le rendono ingessate, e però purtroppo lì il mercato si chiede: queste risorse basteranno? Si parla di fare la leva finanziaria, con 2 miliardi, con una montagna di 80 miliardi, facciamo che siano 20 miliardi su cui operare, e le dotazioni restano comunque basse. Ecco perché oggi il mercato tende a vendere le banche. Noi assisteremo a una grande volatilità sulle banche nei prossimi mesi. Da inizio anno abbiamo visto 2 crolli e 2 risalite. Però da inizio anno le banche sono sotto ancora del 25%, che nell'arco di soli 4 mesi è una vendita massiccia. E sono convinto avremo dei recuperi delle banche, avremo di nuovo degli scivoloni. Finché non si capisce quanto Atlante riuscirà a intervenire e in qualche modo a limitare i danni dallo smaltimento delle sofferenze, fino a che questa cosa non sarà chiara, le banche purtroppo continueranno a ballare in borsa. Ovviamente qualche ascoltatore ci dice: ma perché il Fondo Atlante non è intervenuto? Ma non c'era, e questa è la banale risposta per Banca Etruria, Carichieti, Cari Ferrara e Banca Marche. Tra l'altro, lo ricordiamo, venerdì il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che riguarda gli indennizi per gli obbligazionisti, che saranno automatici all'80% per i risparmiatori coinvolti con redditi sotto i 35.000 euro, che sono circa la metà, e che hanno investito nelle 4 banche prima del giugno del 2014, quindi praticamente quasi tutti, insomma, ricorso all'arbitrato invece per tutti gli altri. Hai toccato il tema delle sofferenze. Il governo ha dato il via libera anche a dei provvedimenti che dovrebbero sveltire il recupero dei crediti, ma ho l'impressione che non siano piaciuti tanto. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, con Fabio Paesi del Sole 24 Ore. Fabio, c'è il punto delle decisioni prese dal governo sul recupero dei crediti, no? Che dovrebbe facilitare lo smaltimento delle sofferenze. Teoricamente che cosa succede? Le sofferenze, appunto, sono i crediti difficilmente esigibili, non esigibili delle banche. Questi crediti hanno una valutazione sul mercato, perché c'è un mercato per questi crediti, vengono comprati e acquistati. La faccio molto semplice. Il fatto di rendere più rapido il recupero di questi crediti, magari per esempio se c'è un immobile ipotecato la banca lo può prendere più rapidamente, rivenderlo fa rivalutare questi crediti, quindi li possono vendere ad un prezzo più alto e migliorare i loro bilanci. Perché il mercato è stato abbastanza deluso, Fabio, dai provvedimenti? La sorpresa di oggi è che nel weekend ci sono stati appunto due provvedimenti: il decreto di rimborso, che vabbè, uno può criticarlo finché vuole, ma di fatto per quegli obbligazionisti, le banche salvate, le Etruria e altre che avevano i titoli e che li avevano con un reddito basso e che poi sono stati spinti a comprarli, c'è di fatto un rimborso, quindi è una notizia tutto sommato positiva, così come questo decreto dovrebbe aiutare le banche a intervenire prima sulle escussioni dei pegni, tra l'altro su pegni anche sui valori immobiliari, non solo immobiliari. Qual è il tema? È che tutti sappiamo che non basta un decreto per sveltire i tempi della giustizia, cioè il decreto c'è, poi bisogna vedere se il tribunale è ingolfato, ovviamente il decreto, come dire, poi serve a ben poco se il tempo non si accorcia per davvero. E il problema è proprio quello lì, cioè il mercato di fatto non c'è perché chi vuole comprarli li valuta 20, perché poi deve andare a riscuoterli e quindi tende a tenere il prezzo molto basso. Le banche hanno a bilancio a 40, se dovessero ascoltare i compratori e vendere a 20 avrebbero delle altre perdite a bilancio. Ecco perché è nato Atlante. Atlante comprerà al posto di questi fondi specializzati ovviamente le tranche più pericolose, e questo aiuta a alzare il prezzo e quindi allinea, dovrebbe tentare di allineare il prezzo di offerta a quello a cui l'hanno in carico le banche. Perché qual è il tema? Che le banche non possono vendere le sofferenze a un valore più basso di quello che hanno a bilancio, se no creano nuove perdite, e questo le banche non se lo possono permettere. Ecco perché siamo in una fase di impasse molto forte. Anche qui le banche salvate, purtroppo il fondatante non c'era. Il tema di verità vero che va detto con chiarezza, e qui è il sole, proviamo a dirlo, è che purtroppo l'Italia è arrivata tardi e male. Questo è il dato di fatto vero. Cioè noi purtroppo avevamo le mani legate, perché quando il governo Ceramonti e il problema di sofferenza era già noto nel 2012-2013, noi non abbiamo potuto fare la bad bank come ha fatto la Spagna, non abbiamo potuto intervenire come ha fatto la Grecia sulle sue banche, perché il nostro debito pubblico non ce lo permetteva. Questo è il dato vero. Peccato che si è minimizzato molto la portata della crisi bancaria, cioè tutti a dire le banche sono solide. Sì, sono solide, però hanno queste sofferenze che comunque sono un macigno. Aver minimizzato, secondo me, è stato l'errore grave da parte della nostra classe politica e in generale delle autorità, perché purtroppo il problema si è affrontato tardi e male quando è entrata in vigore la direttiva europea, tra l'altro votata dai nostri parlamentari italiani, che prevedeva il bail-in. Questo è accaduto e questo è il cortocircuito cui purtroppo l'Italia è entrata, e adesso il prezzo lo stiamo pagando. Ecco, questa è la verità vera, cioè noi avremmo dovuto fare una bad bank nel 2012, purtroppo non potevamo farla, perché la Spagna aveva un debito pubblico al 60 sul PIL, noi avevamo un debito al 120. Quindi la finanza pubblica non poteva intervenire, e però abbiamo molto minimizzato da parte degli stessi banchieri, delle autorità, il fatto che le nostre banche stessero bene. Non era vero, purtroppo, questo è di fatto avvenuto. Ti ringrazio, grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore per la sua chiarezza e anche per la sua nettezza su certi argomenti. Il numero è il solito, è 349-238-6666, stanno arrivando molti sms, magari qualche altro sms, qualche messaggio su WhatsApp, lo leggeremo dopo. Intanto però andiamo a fare un punto sui mercati. Allora, mercati che ovviamente, almeno a Milano, guardano molto, molto a questo, se si vedono le chiusure: meno 7,3 il Banco Popolare, meno 6,04 la Pop Milano, Monte dei Paschi meno 5,5, Saipem meno 5,17, UbiBanca meno 4,9, Unicredit meno 3,68, Popolare Emilia Romagna meno 3,66, Mediobanca meno 2,8, Intesa San Paolo meno 1,9. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera, ciao Andrea. Buonasera Simone. Va bene, allora direi che di banche abbiamo parlato fino adesso e quello che sta succedendo sul mercato lo vediamo. Proviamo a spostarci su qualcos'altro. Mi sembra che E partirei dai titoli che sono andati bene. Partirei da questa Luxottica che mi fa un più 3,7%. Si tratta di un discreto rimbalzo del settore lusso che ha avuto difficoltà nelle ultime settimane perché ci si aspettava delle trimestrali tra i giorni scorsi e l'inizio di maggio piuttosto deboli. Per la verità le aspettative non sono state disattese, la stessa Luxottica ha dato delle indicazioni non troppo brillanti, ma il mercato ha voluto recuperare su un titolo che comunque dall'inizio dell'anno ha perso il 18%. E in generale il settore oggi si è mosso un po' a riscatto anche per un ritorno di positività su un settore, visto che altri comparti come il bancario, le utility e i petroliferi oggi sono stati molto penalizzati. Quindi sì, oltre a Luxottica bene anche Moncler più 3% e Ferragamo che daranno i conti nei prossimi giorni. C'è tutto il pacchetto Fiat, per così dire, più 2,15 Fiat Chrysler, più 1,86 Xor. Tra l'altro ne parleremo subito dopo le 18 con Andrea Malan del Sole 24 Ore. Sì, è stata una giornata complessivamente positiva per quello che tu hai definito il pacchetto Fiat per diversi motivi. Innanzitutto un buon recupero del settore auto in generale in Europa dopo la giornata negativa di venerdì. In più si aspettano le immatricolazioni di aprile per Fiat Chrysler. Tiene banco ancora il tema di Google Car, della sperimentazione con l'azienda di Cupertino anticipata nei giorni scorsi dai giornali americani e poi per quanto riguarda gli altri titoli della galassia Fiat Xor, CNH ha dato una trimestrale con il risultato netto in calo ma con la conferma degli obiettivi del 2016, ha fatto più 0,7% in borsa, trimestrale molto brillante invece per Ferrari che in un primo momento è arrivato a guadagnare anche il 3% e poi è scattato qualche realizzo e alla fine ha chiuso a meno 0,8% nonostante un più 20% dell'utile netto a 78 milioni nel periodo gennaio-marzo del 2016. Tra i titoli positivi Mediolanum più 1,32%, Snam più 0,19%, Italcementi più 0,10%, Buzzi Unicem più 0,06%. I titoli negativi abbiamo detto, fuori dal settore bancario c'è Setti Microelectronics che cede l'1,96%, Eni l'1,76%, Azimut l'1,73%. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. Sono Marta Cagnola e vi aspetto con il Sabato del Villaggio ogni sabato alle 15. Sono Daniele Bellasio, poi alle 17 arrivo anch'io, provo a rovinarti l'ultima ora del Sabato del Villaggio con Radio Tube. I liberi consigli per il fine settimana e tutto il meglio e il peggio della rete tutti i sabati alle 15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp, molti ne stanno arrivando sul tema delle banche che abbiamo trattato in tutta la prima parte della trasmissione. Qualcun altro ci dice ma come non date gli indici? Sì, li abbiamo dati, però li ridiamo sempre anche per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso: meno 0,97 il FTSE MIB per cento ovviamente, meno 0,86 il FTSE All Share, in un quadro positivo nel resto d'Europa. Qua pesano appunto le banche dopo lo stop di Borsa Italiana alla quotazione di Banca Popolare di Vicenza, meno 7,3 il Banco Popolare, meno 6,04 la Pop Milano, meno 5,5 il Monte dei Paschi, giusto per darvi un'idea, ma ne abbiamo parlato appunto subito prima del giornale radio. Qualcuno dice che il problema banche che con la liquidità stanno crescendo le sofferenze del futuro, dice Roberto. Insomma, Roberto, mi sembra un po' eccessivo. Tenga anche presente che i criteri per la concessione del credito teoricamente si sono fatti un po' più stretti e voglio sinceramente sperare che i direttori di banca, così come i vertici delle banche, a questo punto l'abbiano capita, perché se no non usciamo veramente mai più. Parliamo di industria adesso e parliamo di industria dell'auto. Lo facciamo, come spesso accade in questi casi, con Andrea Maran del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sono appena arrivati i dati sulle immatricolazioni. Per quanto riguarda l'Italia si segna un più 11,5% in aprile, con Fiat Chrysler sopra il mercato, un più 12,5%, quindi i dati sono ancora una volta positivi. Nel frattempo lo stesso Marchione sta parlando di Ferrari e sono stati diffusi i dati anche per quanto riguarda Ferrari. Il quadro complessivo che è consegnato oggi da Fiat Chrysler fa segnare almeno in borsa un rialzo di un più 2,15%, così come per Exor più 1,86%, un po' più debole Ferrari, ma pesa anche sull'andamento positivo di Fiat la notizia, Andrea, che si è diffusa nel fine settimana dopo tanto vociare. Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale, ma sembra che, come dire, le chiacchiere quantomeno dell'azienda con Google per l'auto che si guida da sola siano ad uno stadio piuttosto avanzato. Sì, dovrebbe, così le indiscrezioni appunto riportate nel fine settimana, sicuramente ci sono dei contatti, sicuramente Fiat sembra essere passata davanti ad alcuni concorrenti come Ford e General Motors per una possibile intesa. Sarebbe un'intesa importante dal punto di vista tecnologico, anche se non credo avrebbe delle ripercussioni finanziarie immediate, quindi il discorso che facevi tu della borsa è più appunto su una speranza futura. Certo, Fiat Chrysler per ora si è tenuta un po' indietro rispetto agli investimenti che altri concorrenti hanno fatto, sia nell'auto che si guida da sé, sia in altre tecnologie come l'elettrificazione, i veicoli ibridi, eccetera. Un accordo con Google le darebbe una patente di appunto grande avanzamento tecnologico, le permetterebbe di recuperare tempo rispetto alle concorrenti, quindi un discorso importante. Poi come questo si tradurrà in veicoli che verranno messi su strada, quando potremo noi guidarli, quando potremo comprarli, è tutto da vedere. Credo che ci vorranno ancora parecchi anni, sia per motivi, sia appunto per perfezionare la tecnologia, sia per motivi normativi, di responsabilità, certo, legali, eccetera, sia perché c'è anche tutta un'infrastruttura che dovrà in qualche modo essere tarata per accogliere veicoli di questo tipo. Però sicuramente per Fiat Chrysler, nel momento in cui dovesse venire confermato l'accordo, sarebbe un passo importante. Certamente, certamente. Questo dal lato di Google. Appunto, le indiscrezioni sono state diffuse dal Wall Street Journal. Si potrebbe andare verso la Chrysler Pacifica, che se non erro è il nuovo monovolume, no Andrea? È un monovolume che è stato presentato a Detroit a gennaio, la produzione è iniziata in questi mesi negli Stati Uniti e quindi sì, è il veicolo più moderno, quindi ha senso. Tra l'altro credo che abbia senso anche da un punto di vista fisico, nel senso che è anche più facile installarci una serie di apparecchiature che sono piuttosto ingombranti, ma comunque sì, dovrebbe essere quello il veicolo prescelto. Poi vedremo, ha anche senso perché una tecnologia così costosa sicuramente verrà installata all'inizio in veicoli più costosi e quindi per i quali il cliente sarà anche disposto a pagare il sovrapprezzo necessario. Certamente. Non a caso molte delle concorrenti hanno iniziato dai veicoli di gamma più alta. Sì, Stefano ci chiede se l'auto che si guida da sola come evita le buche di Roma. È impossibile, vabbè, è evidente, senza procedere a zig zag è assolutamente impossibile, ma a maggior ragione se è un monovolume piuttosto largo. Non crediamo francamente che sia possibile. Parliamo di Ferrari adesso, Andrea, perché appunto oggi ha presentato i dati: utile netto del trimestre più 19%, ricavi più 8,8%, le consegne totali hanno raggiunto le 1.882 unità e poi lascia l'amministratore delegato e gli subentra lo stesso Sergio Marchionne, titolo che però chiude con un meno 0,81%. Che cosa succede secondo te? Ma dunque, il mercato, francamente in borsa, stamattina guadagnava e quindi non so per quale motivo si sia girato al mercato, non ho avuto modo di parlare appunto con esperti in questo campo. Per quanto riguarda i numeri sono indubbiamente buoni e c'è anche una revisione al rialzo delle stime per il 2016, quindi con prospettive di fatturato a 3 miliardi di euro, un EBITDA almeno 800 milioni e oltre 7.900 unità consegnate. Ricordiamo che per quanto riguarda Ferrari, in sostanza il grande dibattito, al di là del prezzo a cui le azioni sono state vendute, il grande dibattito sostanziale sull'azienda è quante Ferrari vanno vendute, quanto si può ampliare la produzione senza diluire il marchio. E questa è un po' la scommessa che farà il team, a questo punto esclusivamente guidato da Sergio Marchionne, nei prossimi anni, cioè aumentare gradualmente la produzione senza diluire i margini, e su questo credo che nel medio lungo periodo il mercato vi giudicherà. Sì, e tra l'altro oggi è stato annunciato l'accordo, per così dire, con Fiat Chrysler Bank per i finanziamenti per l'acquisto delle Ferrari in Europa, molto semplicemente, che non so, Andrea, se possa far presupporre appunto l'intenzione di ampliare, no, anche il numero di acquirenti delle Ferrari. Ma direi che questa è soprattutto una manovra finanziaria, perché la joint venture verrà messa sotto l'ombrello di FCA Bank, che ricordiamo è una, a sua volta, una joint venture con il Crédit Agricole, ed è, non è consolidata né nei conti di Ferrari a questo punto né nei conti di FCA, quindi è una parte di debito che non è debito industriale ma è debito finanziario, cioè quello che serve poi a sua volta a finanziare i clienti, che esce dall'ombrello, diciamo, delle società operative, quindi migliora da un certo punto di vista la struttura finanziaria e si appoggia a una banca che naturalmente è tra le prime in Europa e quindi a maggior ragione con questi tassi molto bassi non ha nessun problema a finanziarsi sul mercato. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore che liberiamo. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi subito dopo sentiamo anche alcune delle cose che ha detto Marchionne nella giornata di oggi. Focus Economia. Qualcuno dice, ma per Google non avrebbe avuto più senso allearsi con il maggior detentore di mercato negli Stati Uniti piuttosto che con la, aperte virgolette, piccola Chrysler? Sinceramente io dubito che Google tratti solamente con un'azienda automobilistica. Molto probabile che ci sia più di un colloquio, magari quelli con Fiat Chrysler sono un po' più, ad uno stadio un po' più avanzato. No comment, no comment. La vedremo velocemente se il discorso di Google è vero. Se è vero, la vedremo velocemente. Ed eccolo Marchionne che dice lo vedremo velocemente se va in porto o no. Dice ancora Marchionne, la priorità è il piano al 2018, niente debiti, sentiamo. Ci vogliono due persone per trattare, no? Quindi non è che ci abbiano invitato. Noi continuiamo per la nostra strada, l'ho detto chiaramente, il discorso non è morto come discorso strategico dello sviluppo dell'industria, che credo che sia essenziale farlo o prima o dopo. Dal nostro punto di vista erano le persone ideali, ce ne sono altre con cui possiamo collaborare. Ovviamente il passo con cui questi accordi verrà fatto è cambiato completamente, perché bisogna farlo in una maniera molto più tranquilla, credo, e quindi il nostro piano, quello del 2018, continua a essere il punto di veramente l'importanza per il gruppo. Siamo tutti puntati a raggiungere questo famoso 9 miliardi di risultato operativo, di non avere debiti e di portare questa casa a sicurezza. Io capisco benissimo chi ci scrive con un po' di perplessità sull'auto che si guida da sola, ma qualcuno dice che ce ne facciamo, ci vogliono togliere anche il piacere di guidare, qualcuno molto scettico. Se 20 anni fa vi avessero detto che entrando in metropolitana 3/4 delle persone che guardate avessero avuto uno schermo davanti agli occhi, invece che leggere il giornale o stare appesi a chiacchierare o semplicemente stare zitti con la faccia imbestialita alle 7 del mattino di lunedì, che cosa avreste detto? Quindi, piano con lo scetticismo. che l'economia mondiale in questi anni ci ha insegnato che cose sulle quali eravamo estremamente scettici, per esempio i dispositivi touch. Oddio, mai! Voglio la tastiera tutta la vita! E poi eccoci. E sono passati solo 10 anni, il primo iPhone è del 2007. Parliamo di ricerca, visto che stiamo parlando più o meno di questo. Dopo lo stanziamento varato ieri dal CIPE, oggi è stato dato il via libera al Programma Nazionale di Ricerca, un documento che stanzia 2 miliardi e mezzo per gli investimenti pubblici destinati alla ricerca scientifica, il 40% dei quali destinati a capitale umano, ossia alla formazione, all'attrazione dei talenti, a chi lavora nelle ricerche. Le linee strategiche del programma sono state illustrate dal Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Stefania Giannini, era presente anche Marco Gai, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in collegamento con noi. Buonasera Gai. Buonasera. Allora, prima di parlare con lei, sentiamo un attimo che cosa ha detto il Ministro in questo passaggio. La sfida di un rilancio qualitativo e quantitativo del Sistema Nazionale della Ricerca, voglio sottolineare che qui questo è uno strumento strategico in mano al governo per far sì che l'investimento sul capitale umano, sulle infrastrutture della ricerca, che sono le autostrade, diciamo, della conoscenza, su cui investiremo molti più fondi nel prossimo triennio e quinquennio, e le raccorderemo con l'ambizione europea di far sì che queste infrastrutture siano il cardine della ripresa dell'Europa e dell'Italia in particolare. E naturalmente l'apertura del sistema, il fatto di diventare finalmente attrattivi e competitivi come gli altri paesi, visto che le eccellenze le abbiamo, ma dobbiamo creare una condizione che faccia sì che non solo gli italiani all'estero, ma anche gli stranieri possano ritenere l'Italia la sede in cui portare il loro cervello, la loro capacità, la loro competenza. Questi sono i punti qualificanti. Sottolineo che mettiamo più 25% di risorse rispetto alla programmazione che era già pianificata e che per legge sarebbe stata assegnata. Si partiva da 1 miliardo e 950 milioni, si arriva a 2 miliardi e mezzo. E questo poi è leva per potersi raccordare con i fondi europei e con la programmazione che arriva fino al 2020 e che, tutto considerato, metterà insieme un capitale di 14 miliardi per la ricerca italiana. Quindi è un primo passo. Se mi dite basta, vi dico no, ma è un primo passo veramente importantissimo. Così dunque il ministro Stefania Giannini, che tra le altre cose dice che è necessaria la sinergia tra pubblico e privato attraverso un partenariato sempre più stretto con il mondo delle imprese. Dunque partiamo proprio da qua con Marco Gai, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Gai, che cosa potete fare voi come imprese? In che modo potete raccordarvi con questo piano che ha avuto un incremento, come diceva la ministra Giannini, del 25%? Ma inizio col dire che è sicuramente un primo passo, un inizio di una policy di medio e lungo periodo, quindi un fattore che sulla politica industriale di cui abbiamo bisogno diventa essenziale. Noi possiamo aprire le nostre aziende ai dottorati di ricerca da una parte e dall'altra parte lavorare sempre più a stretto contatto col mondo dell'università per far sì che l'innovazione che spesso esiste nel mondo dell'industria si sposti con l'invenzione, la grande ricerca che c'è nel mondo dell'università. Quindi un partenariato sicuramente che deve portarci appunto da invenzione a innovazione, dal sapere a saper fare. Senta Gai, qua c'è un tema, a mio personalissimo modo di vedere, che riguarda più in generale quello che è l'investimento in ricerca e sviluppo di questo paese. Perché se è vero che da una parte lo Stato non ha mai investito molto, e speriamo che questo, come diceva lei e come diceva la stessa Giannini, sia un primo passo per poi iniziare ad investire di più, è vero anche dall'altra parte che nel mondo imprenditoriale hanno convissuto, se vogliamo, due realtà. Una parte che investiva in ricerca in maniera anche pesante, penso, tanto per fare un esempio, a tutto il distretto dell'auto che ruotava intorno a Fiat e al Torinese, ma ce ne sono anche molti altri nella meccanica, nella meccatronica, abbiamo parlato del distretto di Mirandola per esempio per il biomedico e così via, accanto a sacche di impresa che in realtà sulla ricerca investivano poco o nulla, facendo sì che poi la media alla fine risultasse più bassa rispetto a quella degli altri paesi europei. Lei pensa che il fatto che lo Stato finalmente inizi a metterci qualche quattrino in più, possa spingere anche questo mondo, in parte anche piagato dalla crisi, perché poi insomma senza ricerca, soprattutto in questa fase storica, è difficile andare avanti, si rimetta in gioco? Ma io credo in realtà che molto dell'innovazione della ricerca che viene fatta ad esempio dalle piccole e medie imprese ci sia, ma non emerga all'onore delle cronache, quindi sicuramente questa parte pubblica aiuterà a far emergere tutto questo aspetto, questa grande ricerca che viene fatta anche dalle piccole e medie imprese. Poi questo piano favorisce anche la nascita di nuove imprese, quindi di start-up che derivano proprio dalla ricerca, quindi è un altro volano. Credo che l'obiettivo, essendo europeo il 3% e noi essendo nemmeno alla metà di questo obiettivo, questo sia uno strumento che ci aiuti a far sì che l'innovazione che scaturisce dalla ricerca diventi efficace, perché noi dobbiamo fare questo per rendere i nostri prodotti, il nostro Made in Italy, sempre più competitivo rispetto al mondo, anche perché c'è una grande voglia di Made in Italy nel mondo, e quindi avere dei prodotti migliori ci aiuta sicuramente a conquistare e ad aprire nuovi mercati. Dal punto di vista dei settori, il ministro ha parlato di tre pilastri, e su tre pilastri si fonda questo programma nazionale di ricerca, no? L'aerospazio, l'agri-food e quindi anche il Made in Italy, al quale lei faceva riferimento, e poi un ambito un po' più generale che attraversa tutto il mondo dell'impresa, che è la cosiddetta industria 4.0. Ha l'impressione che nell'indirizzare la ricerca, no, su settori specifici, lo Stato faccia troppo o va bene così? Cioè, rischiando magari di lasciar fuori altri settori che possono essere altrettanto innovativi e altrettanto creatori di PIL? Ma io credo che probabilmente il fatto di dare un indirizzo sia la necessità di indirizzare dall'altra parte noi mercato, di cogliere delle opportunità in settori specifici. Poi, come ha detto giustamente lei, si parla di Industria 4.0, che è assolutamente trasversale a tutti i settori di produzione manifatturiera e non, perché si parla di come l'innovazione, che sia open innovation o che sia trasferimento tecnologico, impatti sui processi, sui prodotti e sui servizi. Quindi, come dicevamo, è un primo passo di politica industriale che riguarda il fattore della ricerca e dello sviluppo, e da qui bisogna partire. Ecco, noi come Confindustria devo dire che nell'ultimo anno abbiamo cercato di dare il massimo contributo in questa direzione, e oggi iniziamo a sfruttare quanto prima questa nuova policy per poi essere parte attiva, che è molto importante, nelle decisioni, perché tutto questo deve necessariamente sposare l'economia reale. Bene, bene, la ringrazio. Grazie a Marco Gai, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Gli altri ringraziamenti, perché siamo in chiusura di trasmissione, vanno a Pietro Lacorte in regia, Barbara Bianchi, Mauro Del Corno e Eleonora Aragona in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.